Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:09 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Dilaga la rabbia, non abbiamo paura di Berlusconi, occupiamo tutto, cresce l'indignazione, non un passo indietro, rilanciamo le mobilitazioni, assedio al rettorato, indietro non si torna. Queste frasi, questi slogan li ho presi da un sito che sta diventando un po' il network della ribellione di una parte del mondo della scuola, dell'università, www.uniriot.org, il network delle università ribelli, così si definiscono, dove campeggia una pantera. Ve la ricordate, il movimento della pantera? Insomma, parliamo ancora di scuola, università, più sul fronte della protesta, perché molte scuole, molte università sono in subbuglio, studenti con occupazioni, ma anche cortei nelle città. Berlusconi che ieri ha detto non permetteremo occupazioni, manderemo le forze dell'ordine, occupare le scuole è una violenza. Ci sono anche altre interviste, per esempio una al ministro Brunetta oggi su Libero, abbastanza dura, la leggo subito. Chi manifesta? Bamboccioni protestatari e ignoranti, baroni opportunisti che usano questi bamboccioni per mantenere i loro privilegi. Il paese non ha bisogno di questa gente. Parliamo dunque di scuola. Voglio salutare Mario Mauro, che è vicepresidente del Parlamento europeo, responsabile di scuola università di Forza Italia. Buongiorno e benvenuto, Mauro. Così come saluto Dario Casati, professore, prorettore, vicario alla Statale di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. E allora, ci sono anche altri ospiti che ci raggiungeranno. Le 9:12 minuti, la protesta nelle scuole e nelle università, la reazione del Presidente del Consiglio che ha detto interverranno le forze dell'ordine, ieri anche l'incontro con il Ministro Maroni per i dettagli su come si deve intervenire. Che ne pensate? 800 24 00 24. Io tra l'altro vogliamo partire da Scafati, in provincia di Salerno, dove trovo Roberto Iorino, che è il coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti. Buongiorno. Buongiorno. Lei sta andando a una manifestazione, credo, una delle tante sì, poi a tutta Italia. Sì, sto raggiungendo un corteo di studenti delle scuole superiori che si sta aggregando nella piazza principale per fare assemblea. Perché? Perché manifestare? Perché protestare? Contro che cosa? Ma intanto, rispetto anche a quello che ha detto Brunetta, mi sembra che ci sia un'emergenza democratica in questo paese. Dire che chi protesta è semplicemente un fannullone o un ignorante mi sembra l'approccio sbagliato di chi invece fa politica e dovrebbe dare delle risposte. Ci sembra che gli 8 miliardi di euro di tagli all'istruzione pubblica siano una follia, mi sembra che la scuola e l'università non possono essere capitoli di spesa da tagliare per dare i soldi alle banche e non mi sembra neanche che l'approccio migliore che può avere il Presidente del Consiglio sia di andare a picchiare nelle scuole i figli della Repubblica. Che ne pensa delle forze dell'ordine? Loro fanno il loro lavoro. No, cioè non che ne pensa delle forze dell'ordine, mi perdoni, che ne pensa dell'eventualità dell'utilizzo delle forze dell'ordine? Ci sembra l'approccio assolutamente sbagliato. Il Presidente del Consiglio poteva benissimo incontrare, come ha fatto Napolitano, gli studenti che stanno protestando, ascoltare le nostre ragioni e capire se si può intervenire. Noi che abbiamo chiesto il ritiro del decreto 137, la modifica di alcune norme della finanziaria, queste sono delle richieste chiare che non hanno nulla di violento e che non mettono in conto da parte nostra quella che è l'uso delle forze dell'ordine. Tra l'altro ieri nell'incontro con il ministro Maroni pare che Berlusconi, a meno questo da indiscrezioni oggi per esempio sulla stampa, abbia fatto cenno al fatto che, dice il Presidente del Consiglio, sostanzialmente l'80%, il 60-70%, mi correggo, degli studenti in realtà vogliono essere presenti alle elezioni, vogliono avere il diritto di studiare, dunque quelli che sono in piazza, quelli che fanno manifestazioni sono minoranze. Prima di andare da Mario Mauro, professor Casati, le voglio leggere un'altra parte dell'intervista a Renato Brunetta oggi su Libero. I picchetti, chiede Fausto Carioti, le occupazioni sono vietati dalla legge, risponde Brunetta. Cosa devono fare presidi e rettori? genitori davanti a picchetti e occupazioni devono chiamare la polizia per garantire il diritto ad andare a lezione o al lavoro. Non è tollerabile che il diritto di alcuni si trasformi in violenza per altri. E se non lo fanno, cioè se presidi e rettori fingono di non vedere, in questo caso devono muoversi le autorità di pubblica sicurezza o la magistratura. Si tratta di applicare la legge. Nell'ipotesi, ovviamente, che nessuno voglia che ci sia un intervento delle forze dell'ordine, eccetera. È effettivamente così che ne pensa lei, che è prorettore alla statale di Milano, dove ci sono manifestazioni, proteste? Cioè, bisogna chiamare la polizia? Ma senta, io adesso sono prorettore, sono stato preside della mia facoltà per 12 anni e ho fatto anche il tempo della Pantera come preside. Io le devo dire che sul piano formale Brunetta dice delle cose che sono ovvie e ineccepibili, e sul piano sostanziale nel mondo dell'università vige un'antica consuetudine per la quale non si chiama la polizia se non in presenza di reati, come potrei dire, di tipo ordinario, ecco. Quindi è chiaro che in questi casi la prima strada è quella di sentire che cosa vogliono i giovani, discutere, fare assemblee nel caso in cui le vogliono, andare a sentire che cosa vogliono dire, eccetera. Cioè, credo che è un po', se posso fare un paragone così, stemperiamo la questione, è un po' come la storia del voto all'esame. In teoria si boccia, in pratica si consiglia allo studente di ritirarsi. Non è scritto da nessuna parte di far così, però nel mondo universitario si è sempre fatto così. Mario Mauro, come detto vicepresidente del Parlamento Europeo, responsabile di scuola università di Forza Italia, soprattutto si occupa di università. Che ne pensa? Ieri Sacconi, proprio qui ai nostri microfoni, ha detto sono minoranze di presuntuosi che manifestano, cioè perché presumono di sapere. Oggi Brunetta dice sono dei bamboccioni ignoranti. Insomma, è davvero ridurre a questi slogan la manifestazione, le manifestazioni in tutta Italia, secondo lei è un approccio corretto? Guardi, credo l'importanza di una protesta è legato appunto alle ragioni che la fondano, e da questo punto di vista la prima cosa è cercare di capire le ragioni. Devo dirle con grande franchezza che nel tentativo di comprenderle, sia le ragioni di chi manifesta per i provvedimenti relativi alla scuola, sia le ragioni di chi manifesta sul tema dell'università, balzano all'occhio delle evidenti contraddizioni, nel senso che la protesta della scuola non sembra avere un contenuto preciso e le proteste dell'università, se in parte possono ritenersi giustificate, perché è vero che se il problema della scuola è un problema, diciamo, di spesa inefficiente, ma il livello della spesa sul piano scolastico è grosso modo quello degli altri paesi europei, se non di più. Sul piano dell'università invece affrontiamo condizioni più drammatiche, però allora mi sfuggono i termini della questione, nel senso che veniamo da 2 anni di un governo di sinistra che ha sostanzialmente constatato e ribadito che il problema primo per cui non si riesce a intervenire in termini anche di investimenti in università è che l'università sembra non avere un livello di governance sufficiente o sufficientemente congruo, funzionante, al punto tale da giustificare nuovi investimenti. C'è da dire in qualche modo, insomma, che mettere i soldi nell'università appare da qualche anno come metterli nel pozzo di San Patrizio, sparisce tutto e non si capisce bene come venga finalizzato, ma questa denuncia non la fa il governo, la fanno le università per prime, che infatti tra di loro denunciano la presenza di soggetti virtuosi e di altri meno virtuosi. Questo sì, probabilmente si tratta di approfondire questo livello. Mi permetta solo di fare una considerazione. Una settimana fa ne abbiamo parlato proprio di università alla luce del libro di Roberto Perotti, insomma delle problematiche che ci sono all'università. Però le chiedo, mi scusi Mauro, la questione è anche, ieri il Presidente del Consiglio ha detto non si è fatta chiarezza, non è stato spiegato bene il provvedimento, su tutti i giornali oggi campeggiano sostanzialmente cosa prevederebbe, secondo il governo, la nuova scuola, la nuova università, e cosa invece dicono i manifestanti. Sono due cose proprio contrapposte, non so, sul tempo pieno da una parte ci sarà, no, non ci sarà più, un maestro unico ci sarà, no, non è vero, ci sarà il maestro prevalente, le piccole scuole chiuderanno, no, non è vero, non chiuderanno, e non ci si capisce più niente, insomma, su questa cosa. Guardi, questo è riconducibile a un altro fatto, che purtroppo è condizione ineliminabile del dibattito politico italiano da moltissimi anni a questa parte sul tema scuola. Mi spiego con un esempio. Le obiezioni che vengono fatte al decreto sul tema scuola sono sostanzialmente: uccidete la scuola, togliete il tempo pieno, licenziate i maestri. In realtà di questo non c'è niente nel decreto. Ma le posso dire di più. Quando abbiamo avviato i temi della riforma Moratti, o quando il ministro Berlinguer, anni ancora più addietro, ha tentato la riforma del sistema scolastico italiano, grosso modo nelle contestazioni, le contestazioni di merito c'entravano sempre ben poco con il merito dei provvedimenti, perché il problema di fondo è che la scuola italiana, e forse anche l'università, ma più la scuola sicuramente, negli ultimi 20 anni è stata ostaggio di uno scontro politico che è stato tendenzialmente finalizzato a mettere in difficoltà chi era al governo nell'una o nell'altra circostanza, per lucrare sulla rendita politica di una serie di manifestazioni dove le ragioni, infatti se andate a verificare parlando con i ragazzi, pochissimi sanno di che cosa veramente stiamo parlando. Vabbè, adesso vediamo, magari Iorino ci dirà qualcosa, lui ci ha detto insomma dell'idea del perché si manifesta. Comunque 800 24 00 24, come al solito quando si parla di scuola c'è tanta passione, ci sono tanti interventi, mail, ascoltatori, quindi massimo brevità in tutti. Il primo ascoltatore è Alessandro da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ah, salve, sono in linea. Sì, sì, è in linea. Vorrei ringraziare chiunque, la dirigenza del programma. Niente, beh, a parte, vabbè, chiamo da Livorno, ora questo campanilismo un po' inutile, comunque lo sottolineo. Vabbè, da Livorno, no, so che da quelle parti è importante, da Livorno, dica. La ringrazio. Allora, ascolti, io frequento la facoltà di legge a Pisa, sono al terzo anno. Innanzitutto vorrei dire una cosa, cioè nel senso, per farmi capire, quello che vabbè volevo sottintendere è che comunque effettivamente queste manifestazioni stanno facendo un po' di scalpore, e in ogni caso ho sentito alcuni compagni, per esempio con alcuni compagni di corso che sono in corso con me, vabbè, anche loro sono un pochino, diciamo così, ostici a questo tipo di manifestazione. Io per primo sono insomma un pochino così, lasciamo, perplesso da quello che sta succedendo. In ogni caso, una cosa che tengo a ribadire è che non è vero che noi non sappiamo cosa sta succedendo, non è vero che non sappiamo quali sono i termini della riforma, perché essenzialmente la riforma di questa università, la riforma dell'università può essere giusta sotto alcuni aspetti e sbagliata sotto altri. Non parlerei di ignoranza in questi termini, perché essenzialmente quello che si sta venendo a creare comunque è una coscienza sotto questo aspetto. Sì. Noi sappiamo benissimo che vi sono dei forti alla ricerca, e questo, ok, ci influenza anche ben poco essenzialmente, e forse influenza più che la frangia di neolaureati, di aspiranti professori, e non è per questo che manifestiamo. Quello che ci lascia perplessi sono la possibilità di un'università di costituirsi come fondazione, e questo anche per me, che non sono, diciamo così, particolarmente, cioè non tengo particolarmente questi temi di questa, diciamo, di queste manifestazioni. Comunque mi lascia comunque. Sì, è una delle ipotesi in campo. Da questo punto di vista vorrei andare dal professor Casati, cioè l'ipotesi nella legge, nella possibilità di riforma di trasformare le università in fondazioni, far entrare fondazioni che poi possono essere aperte anche al privato. Professor Casati, questo è un punto che come lo giudica lei? Guardi, questo è un punto che fa molto discutere, ma un vero dibattito non c'è stato. Lo studente di poco fa diceva: siamo preoccupati per alcune questioni. Noi no, in questo momento però non abbiamo una legge di riforma dell'università, noi abbiamo 5 articoli circa della legge 133 che ci toccano su alcuni aspetti finanziari gravi, importanti, e uno dei quali è questo sulle fondazioni. Ora, trasformare l'università in fondazioni, come è scritto nell'articolo 16, e al momento è praticamente irrealizzabile per la maggior parte delle università. Le faccio l'esempio della mia. Noi abbiamo un bilancio al netto di tutto di 500 e rotti milioni di euro. 2.500 docenti, 2.000 persone di personale tecnico amministrativo, 1.000 dottorandi di ricerca, eccetera. E chi ci si piglia, voglio dire, è con un impegno di spesa elevato e costante nel tempo, quindi è un po' difficile. L'idea può suonare bene, secondo me è mancata su questa questione una seria disamina e soprattutto un dibattito, come dire, aperto e costruttivo. Al momento è un articolo della legge, ma manca proprio completamente ogni tipo di riferimento. Altri tipi di fondazioni a cui ci si riferisce, per esempio quelle fatte, che ne so, nei teatri lirici, eccetera, ci fanno un po' tremare di fronte alla possibilità concreta attualmente di applicare le fondazioni alle università, più tutti gli aspetti legati allo stato del personale e voglio dire soprattutto il personale tecnico amministrativo più che non quello docente. Per loro ci sono dei problemi seri in una possibile privatizzazione. Intanto, si tratta di capire. Vedo anche in TV ovviamente che scorrono immagini, insomma, di università occupate di protesta, ovviamente anche in tante scuole. Per esempio oggi leggevo un'agenzia ANSA che questa mattina pare il Tasso, lo storico Tasso liceo a Roma, è stato occupato, o il periferico scientifico Malpighi, questo dicono le agenzie. Poi bisogna vedere da quante persone. A questo proposito, Roberto Iorino, voglio ricordare, coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti, ci sono molti studenti che vogliono continuare a studiare, ci sono molti studenti che vogliono che sia preservata la possibilità loro garantita dalla Costituzione di continuare a studiare. Come la mettiamo con questo? Ma io intanto chiarirei un punto: questo è un movimento per studiare di più, non per studiare di meno. Io penso che dobbiamo ricostruire un minimo di verità di quello che sta succedendo in questo paese. In questo paese non ci sono picchetti, occupazioni, qualcuno che interrompe il servizio pubblico. In questo paese ci sono studenti che stanno organizzando insieme ai docenti lezioni di piazza, ci sono studenti che stanno animando le proprie scuole non interrompendo il servizio pubblico. Siamo passati a una forma un po' più radicale con alcune occupazioni negli ultimi giorni, perché è più di un mese che proviamo ad incontrare il ministro Gelmini, che continua a non incontrarci. E invece di ragionare su un piano politico di cosa non va di questi provvedimenti, e non è vero che la maggior parte degli studenti non sa cosa prevede la finanziaria e in particolare il decreto 137, il ministero invece di dialogare con gli studenti ci porta in piazza i manganelli. Questo è un atteggiamento assolutamente, secondo noi, incomprensibile. Tra l'altro oggi alle 17, poco fa, il ministro Maroni ha detto una riga sostanzialmente, o una frase: oggi alle 17 c'è una riunione al Viminale, non aggiungo altro. Voglio salutare, ci ha raggiunto il professor Luigi Berlinguer. Buongiorno, ex ministro dell'istruzione dal 96 al 2000, benvenuto Berlinguer. Mi sente? Pronto Berlinguer? Eccoci qua, è caduta la linea. Allora abbiamo ripristinato la linea con il professor Berlinguer. Buongiorno Berlinguer. Buongiorno, chiedo scusa. No, ci mancherebbe, ex ministro dal 96 al 2000. Allora sentiamo un paio di ascoltatori, poi sono da lei, insieme ovviamente sempre a Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento Europeo, e a Dario Casati, prorettore vicario alla Statale di Milano. Gianluca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto complimenti a tutti per la trasmissione. Sì, vada al sodo. Molto velocemente, io ho 35 anni e ho una bambina di 6 anni, quindi quest'anno ho cominciato le scuole elementari. Prima dell'inizio è ovvio che c'è stata la riflessione tra scuola privata e pubblica. La scelta è caduta sulla pubblica. Oggi, vivendo a Milano, insomma, abbiamo necessità di avere la bimba occupata tutto il giorno per motivi di lavoro. Quindi il tempo pieno oggi è una soluzione per la famiglia, sì. Non solo, perché l'ipotesi di avere due maestri io penso che sia anche a vantaggio di una soluzione che giochi sulla formazione dei bambini. E quindi? Oggi pensare al fatto che arrivi il maestro unico e quindi che da due maestri si passa ad uno, da un lato mi pone dei dubbi sulla qualità della formazione che andiamo a dare ai bambini, dall'altro ho paura che mi rinforzi l'idea per una scuola privata. Va bene, vede però Gianluca, è proprio la questione di cui si dibatteva ancora ieri il presidente Berlusconi, e dall'altra parte l'opposizione dice è il contrario, diceva ci sarà, non solo non ci sarà meno tempo pieno, ce ne sarà di più. Il maestro unico è diventato il maestro prevalente, non solo non ci sarà un solo maestro, ma ci sarà il maestro più quello d'inglese, quello di religione. Allora vede, io non lo so, io le do gli elementi, però non ci si raccapezza molto più su quello che sarà la scuola da un anno a questa parte. Francesco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io vorrei entrare subito nel merito delle questioni. Innanzitutto sottolineando che ancora una volta la sinistra dimostra di non essere una forza di governo nel suo insieme. Perché? Perché tutti gli indicatori che riguardano la scuola posizionano il nostro paese nel fondo delle classifiche internazionali. Quindi il fatto che nell'ambito scolastico un intervento bisogna comunque farlo, credo che se ne dovrebbe far carico sia il governo ma anche sia le forze dell'opposizione. Nel merito, io sono un operatore della pubblica amministrazione, ecco, quello che sta facendo Brunetta nella pubblica amministrazione per esempio è mettere al centro del sistema il cittadino utente. Ecco, nella riforma Gelmini io leggo la stessa cosa. La riforma cerca di mettere al centro del sistema scolastico. Quindi a lei va bene, è favorevole. E secondo me il governo deve andare fino in fondo va in questa bene. Faccenda, anche perché la sinistra, attraverso la strumentalizzazione di tutto ciò che sta avvenendo intorno alla scuola, pensa a tutto tranne che ai problemi dell'alunno. Grazie Francesco. Onorevole professore Berlinguer, anche lei è stato vittima delle proteste, diciamo, in un'intervista recente le ha detto qualsiasi riforma della scuola si scontra di fronte alle proteste. Vede nelle proteste di oggi questa sua considerazione riproposta? No, non così esattamente. Allora, ci sono stati dei momenti in cui le proteste erano rituali, avvenivano d'autunno e non avevano una forte consistenza, erano più un no. Ci sono dei momenti in cui le proteste in Italia e nel mondo, attenzione, invece interpretano un sentire più profondo. In questo momento quello che io avverto è qualcosa di diverso. Perché? Perché gli insegnanti e soprattutto ma anche gli studenti si sono sentiti un po' offesi, questo percepisco. Non so se, io non sto dicendo che abbiano ragione o torto, stia sentito, sto dicendo che si sono sentiti un po' offesi del fatto che il primo messaggio che è uscito è un messaggio di tagli. Cioè bisogna risparmiare per lo Stato, prendiamo dalla scuola che è l'amministrazione più grossa che c'è nel paese perché c'ha 1 milione di addetti, nessun altro ce l'ha. E l'idea di un altro tipo di scuola non emerge a sufficienza da tutto questo. Per esempio, io non sono del parere che il tempo pieno sia utile soprattutto perché parcheggi i bambini e i genitori lavorano. Certamente anche questa è una questione che ha un rilievo sociale. Ma la ragione prima per cui il tempo pieno si deve fare, oppure si deve fare un'altra cosa, il prevalente che dirò fra un attimo, è perché bisogna cambiare la scuola che c'è. Bisogna migliorarla, non conservarla com'è. Né conservarla per conservare l'occupazione, né conservarla attraverso un ritorno a un passato ancora più lontano. Ecco, io sento solo parlare nostalgici del passato. Questo è completamente sbagliato. Oggi alla scuola elementare, a differenza del passato, non basta imparare a leggere, scrivere, a far di conto. Io presiedo un comitato che deve diffondere la musica nella scuola. Io dico bisogna imparare a leggere, scrivere, a far di conto e far di canto. È una battuta per dire, se non si impara l'inglese o una lingua, se non si impara a suonare, come succede in tutti i paesi evoluti, se non si introducono questi specialismi che non ha il maestro per quello che lui ha imparato, abbiamo una scuola povera, una scuola di puro trattenimento. Cioè il futuro è un'offerta formativa più ampia, e dunque il ritorno al passato. Formativa. Quindi una parte degli insegnanti che si volessero conservare va indirizzata ad un arricchimento dell'offerta formativa. Ecco, questa è la prima cosa che bisogna dire della scuola, e questo riguarda anche la scuola superiore. Guardi, oggi non sento dire che la cosa per me più importante è che tutti tutti i curricoli, tutti i programmi devono essere rivisti profondamente. Si parla di cose che sono un po' estranee, è più lo scontro da una parte contro l'altra, sì, che mette in mezzo una realtà che non si esamina. Le stesse opinioni pubbliche, gli stessi autori che scrivono sui giornali, eccetera, non sanno nulla di quella che è oggi il bisogno della scuola. Perché i finlandesi, perché i coreani, perché gli svedesi, perché gli inglesi sono andati infinitamente più avanti? Perché non c'è più una scuola in cui c'è una cattedra, ci sono i banchi, si trasmettono dei saperi, i ragazzi devono diventare una spugna che, o un vaso su cui versare del sapere, anche i bambini. Bisogna cambiare tutto, ecco il vero punto. Senta, e su questa base bisogna mettersi d'accordo destra e sinistra. Le chiedo però, visto che lei conosce anche il mondo dell'università molto bene, che ne pensa della vicenda, insomma, che è sulle prime pagine dei giornali, l'appello a dire intervenite con le forze dell'ordine nel caso, e oggi il ministro Brunetta, ho citato in apertura, ha detto anche siano i rettori o nei casi i presidi a avvisare la polizia, perché occupare le scuole è un reato, lo vogliamo ricordare. Io ho fatto il rettore, ho fatto il segretario dei rettori, non ho mai chiamato la polizia, eppure ho reso le aule agibili. Come? Perché uno deve avere la forza di persuadere. Ho sentito Iovino che interveniva. I dirigenti degli studenti hanno oggi la sensibilità che ieri forse non c'era, che non si devono commettere reati. Ci deve essere il diritto a manifestare e il diritto a studiare, tutte e due. Allora, occupare tutto è probabilmente una cosa sbagliata. Se noi però oggi inseriamo le forze di polizia subito, creiamo delle forme di tensione per cui si può peggiorare e non migliorare. Ci vuole fermezza, ma non ci vuole il ricorso a qualcosa che può aumentare, è come gettare benzina sul fuoco. Allora, cosa vuol dire questo? Per esempio, ci sono stati dei periodi in cui nelle scuole si facevano dei controcorsi, si arricchiva, certo sono dei fenomeni non tradizionali, non rutinari, come dire, non curriculari, però anche la discussione sulla natura della scuola, eccetera, è spesso per un periodo breve è molto utile, è persino per l'università. Qui mi lascia aggiungere una cosa, tagliare l'università, tagliare la ricerca è un crimine, guardi. È una cosa gravissima, perché non si sa in Italia che noi siamo fra gli ultimi nel mondo per quanto riguarda la quantità di denaro versato nella ricerca. C'è stato un abuso nel numero dei corsi di laurea, forse nella proliferazione territoriale, per cui anche in paesini sono stati aperti dei corsi di laurea. Mussi aveva già cominciato a chiuderli quelli. Si deve continuare ad evitare una proliferazione non razionale, ma il problema dell'università non è questo. È che bisogna dare un sacco di soldi in più alla ricerca, se no noi finiamo nel Congo belga. Guardi, qui c'è un problema drammatico del paese se non si fa un forte investimento nella ricerca. I professori oggi stanno percependo esattamente il contrario, e questo bisogna dirlo, è una cosa molto delicata. Mario Mauro, che ne pensa, insomma, della vicenda dell'intervento della polizia? Voglio dire, alle 5 oggi c'è questo vertice al Viminale, abbiamo capito dal ministro Maroni. Pare che la Lega si sia anche un po' risentita dal fatto di essere stata sorpassata, cioè questa convocazione dal Presidente del Consiglio in conferenza, e anche Alleanza Nazionale ha un po' storto il naso. Davvero è auspicabile che almeno questo non avvenga, come ha detto Berlinguer? Io non ho mai chiamato la polizia. Guarda, io credo che Luigi Berlinguer abbia detto cose molto sagge. Aggiungo anche un'altra considerazione che mi deve essere consentita, riprendendo quanto diceva prima il professor Casati. Il professor Casati ha parlato di consuetudine, c'è stato per molto tempo e c'è ancora, soprattutto nell'università, la consuetudine di non chiamare la polizia. Se la consuetudine è la capacità persuasiva di cui parlava Berlinguer, quindi di stemperare le proteste e far vedere che nel merito è possibile trovare un punto di dialogo, ben venga la consuetudine. Se la consuetudine è quella che ha vissuto il sottoscritto e con me anche il rettore Berlinguer e anche il professore Berlinguer negli anni bui della nostra storia, cioè quella di consentire che studenti non avessero accesso agli studi perché magari di destra o cattolici, e allora di questa consuetudine ci dobbiamo liberare. A proposito di questo, professor Casati, leggo un'agenzia, non so se lei ne sa qualcosa in più, i cancelli della Facoltà di Scienze Politiche degli studi dell'Università degli Studi di Milano, la statale, sono stati bloccati dagli studenti questa mattina per un'ora, impedendo così l'ingresso a chi voleva frequentare i corsi, e ci sono previste delle lezioni libere. Ecco, è corretto questo secondo lei? In tutta onestà io non ho notizia di questa cosa, anche perché è un'ora che sono al telefono con voi. Sì, questo è vero. Leggo sull'ANSA, insomma, se ci fosse un impedimento a chi allora, non vuole. Senta, io credo che la mia posizione sia quella che è emersa sia nell'intervento dell'onorevole Berlinguer, sia nell'intervento dell'onorevole Mauro, cioè la consuetudine, ha ragione Mauro, io non sono stato abbastanza preciso, la consuetudine è un problema di stile di rapporto. Il nostro studente non è un bambino, è un adulto che è e deve essere responsabile. Da questo punto di vista è chiaro che, come avevo anche detto all'inizio, nel momento in cui si arriva a commettere dei reati è un conto, se no si discute, siamo in università per discutere e per approfondire. Dopodiché il focolaio del movimento in questa situazione a Milano è stato a scienze politiche. È un numero di studenti ridotto quello che mantiene viva la fiammella. Noi abbiamo 65.000 studenti in giro per la nostra città che seguono i corsi. I gruppi di cui si parla sono gruppi molto piccoli. A questo proposito, se ci fosse un blocco agli altri sarebbe una cosa, questa sì, sbagliata. Ma voglio dire, persino nella sede storica della statale, quella che poi va su tutti i giornali, c'è stata, è vero, questa grande assemblea l'altro giorno, diciamo che c'erano presenti tra 1.500 e 2.000 studenti a seconda delle diverse stime, si è svolta tranquillamente, sì. Non c'è stato nessun problema, poi sono defluiti, il corteo è partito con alcune centinaia di aderenti, di manifestanti, è stato dopo che, quando una parte di questi è andata a dare la stazione Cadorna, è contemporaneamente quella delle Ferrovie Nord, cioè quella dei pendolari, e quella della metropolitana. È lì che è degenerata la situazione, no? Certo. Lì. Due ascoltatori, Nicola da Udine, buongiorno. Nicola? Sì, pronto, mi senti? Dica, è in diretta. Sì, grazie, buongiorno, saluto i suoi ospiti. Niente, la mia piccola contributo, io sono un medico in formazione, quindi sto concludendo il mio curriculum universitario, mi sto per specializzare. Io sono stato formato in un'università molto grande del nord, che è quella di Padova, e sto concludendo nella specialità nella mia regione, che è il Friuli Venezia Giulia. E ho potuto vedere due complete visioni diverse. La prima è quella di una grandissima università con un sacco di opportunità, di facoltà e di... dove però gli sprechi sono evidenti, perché lei dovrebbe sapere che un professore universitario, come obbligo di lezione, ha soltanto 90 ore all'anno, contro realtà, dico, europee, dove il livello di insegnamento sono ben maggiori. Cioè dice ci sono sprechi, insomma, nell'università. Ci sono vabbè, sprechi ma questo... enormi, io capisco che, come diceva l'ex ministro Berlinguer, bisogna finanziare, bisogna investire, ma io capisco anche che in realtà piccole come quella del Friuli di Venezia Giulia, dove su 2 milioni di abitanti ci sono due università, le quali due università poi hanno sede un po' a Gorizia, un po' a Pordenone. Sì, insomma, è un po' troppo. No, ma d'accordo. Edoardo dalla provincia di Monza, Brianza, buongiorno. Oh, buongiorno. Dica. Vorrei portare la mia piccola testimonianza sui fatti di questi giorni. Prima di tutto vorrei dire che nei mezzi di informazione, anche nella vostra radio stamattina, ho sentito la cosa che gli studenti sono in piazza e gli studenti protestano. Attenzione, allora, una parte degli studenti... L'abbiamo detto, certo, una parte. Io stamattina ho accompagnato i miei due figli che vanno alle superiori, siamo sulla strada, li lascio giù, sia un istituto che l'altro, tutto tranquillo, tutti gli studenti, molti studenti, moltissimi studenti all'interno della scuola a fare lezione. Istituti oltretutto che negli anni 70 erano famosi per giustamente testimonia il fatto che non tutti, per carità, esatto. E niente, io vorrei leggere questo volantino che credo sia abbastanza significativo per quello che è lo stato di confusione. Se è breve, lo riassuma. riassumo velocemente. Corteo, partenza, da manifestiamo contro riforma Gelmini che non ci dà i nostri soldi. E qua già mi faccio una domanda. Cosa vuol dire? E favorisce le scuole private tentando di far sparire quelle pubbliche. Caro scuola, non si sa, finanziamenti alle private, ma degrado scuole pubbliche. Boh, gli studenti non hanno più voglia di stare ad ascoltare il governo e tempo del governo di ascoltare gli studenti. Allora io dico, veramente questo credo che dia l'idea di questi ragazzi che vengono mandati, io dico, in piazza con delle informazioni che non sono neanche informazioni, perché fossero delle informazioni, ma qui c'è una grande confusione. E stamattina sento dire che il PD appoggia gli studenti, cioè siamo veramente rovinati, veramente io non ho parole, ecco, cioè, appoggiamo gli studenti su che cosa? No, ma la ringrazio Edoardo, io devo rispondere anche a una mail prima di tornare per un attimo al professor Berlinguer, perché anche un ascoltatore giustamente ci scrive, ma scusate, ci volete spiegare cosa vuol fare il governo, su cosa protestano gli studenti? Guardi, sarebbe molto bello, caro Gabriele, lei prenda un giornale qualsiasi, ieri c'era su Avvenire, oggi su Repubblica, ma tutti lo stanno facendo. Quello che secondo il governo sarà la nuova scuola, il tempo unico, il tempo pieno, il maestro unico, lo studio dell'inglese, le piccole scuole, eccetera, è quello che dice l'opposizione. Sono le due cose contrapposte. Uno, ripeto, dice sarà così e l'altro dice sarà cos'ha. Su tutto, vorrei, non so, forse resterà solo da aspettare tra un anno e capire che cosa succederà. Professor Berlinguer vuole rispondere all'ascoltatore sull'università, cioè non è possibile preservare, come dice lei, i fondi per la ricerca fondamentali, siamo dei paesi non dico sottosviluppati, ma a livello europeo come investimento del PIL in ricerca tra i più bassi d'Europa. Preservare questo, ma anche tagliare tutte le storture, tutti i corsi, tutte le troppe università, cioè gli sprechi. Allora, ci sono alcuni sprechi nella università, un po' nella scuola ce ne sono forse anche di più. Su questi bisogna essere inesorabili. Le ripeto, Mussi aveva cominciato, la Gelmini vuole continuare, si va avanti in questa direzione. Cioè si sono fatte troppe piccole sedi, però sono state fatte anche durante il regime della Moratti, si è, da tutte le parti sono state fatte. Allora, questo va fatto, però non è la cosa più importante, perché dal punto di vista dell'economia, delle spese, eccetera, queste non hanno un'enorme incidenza, glielo posso assicurare. Mentre ciò che ha un'enorme incidenza è il grande vuoto della spesa scientifica. Questo, ci sono delle zone del paese dove ci sono dei belli edifici universitari, ce ne sono altri in cui gli edifici universitari sono totalmente inadeguati, allora si costruisca anche in quel senso. Mi faccia fare una battuta sul Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia oggi è una delle capitali mondiali della ricerca. A Trieste c'è un concentrato di ricerca, non solo l'università, che è molto qualificata, prima non lo era a questo livello, ma persino la Sissa, una delle più grandi università per dottorato, che non fa il primo e il secondo ciclo, ma soltanto il dottorato, il centro di Abdul Salam, che ha insegnato fisica a tutto il mondo, il centro biologico, la luce di sincrotrone, c'è un concentrato straordinario, magari si potesse avere in tutto il resto. Ora la città ne ha guadagnato tantissimo, ma soprattutto l'Italia. A Udine c'è una università retta da un grande rettore, ora sindaco, Onsel, un matematico, sì, che comincia a incidere seriamente anche in quella città. Certo, non è Padova. Padova ha una storia, è fra le più belle, più importanti università italiane. Allora, non si guardi soltanto il particolare, perché questi accumuli di sapere sono per il nostro paese un privilegio. Noi ne stiamo perdendo la primazia in alcuni campi nel mondo. Noi stiamo perdendo la primazia in fisica. Io sono andato in Giappone da rettore e poi da ministro e parlavano in italiano i fisici, in italiano, perché abbiamo avuto un peso enorme. Adesso queste grandi quantità e qualità che noi abbiamo avuto stanno scemando. Mi lasci fare un accorato appello, non da destra o non da sinistra, guardi, perché si investe in ricerca. Questo, devo dire, è una critica che faccio alla sinistra, che si attesta più sul no che non sulla proposta. Investire in ricerca. Con questo appello che condivido, io ringrazio lei come tutti gli ospiti. Voglio ricordare, a partire da oggi in XL, dalle 13 alle 14, il nostro GR Extra Large, lo sentiremo, gli stralci del decreto Gelmini, cercheremo di capire allora ma cosa c'è scritto in questo benedetto decreto, secondo il governo una cosa, secondo l'opposizione un'altra. Dalle 13 oggi comincerà questo percorso. Grazie a tutti, ad Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Marco Tulli in redazione, Giorgio Matè in regia. A domattina. Viva voce.